Per strada, bomber alfa e la testa rasata, non curante dei gatti bagnati e della polizia, innocente prodotto randaggio di periferia. Lui da solo salutava la gente all'apologia di fascismo indifferente. Ma il suo grido d'aiuto non riceve la giusta attenzione, perché è contro natura adottare in questa nazione. Adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te. Affacciati in finestra e guardando l'asfalto bagnato, scrutando dall'alto quel Cristo di nero inzuppato. I due si guardano e dicono: ah, Mauri, tu ricordi Renato? E certo, tu parli del nostro bambino mai nato. Adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te. E sia russo sia nero, sia frocio d'etero, sia preto o carabiniero, che sia fascio davvero, sia stronzo tenero, oppure che sia come me, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te. Continuiamo il nostro pomeriggio di Radio Città Fujiko con un'altra intervista. Come sempre cerchiamo di intervistare artisti che suonano a Bologna o nei paraggi nei prossimi giorni. Noi per fortuna ci siamo persi la data bolognese, ma dico per fortuna, Giancane tornerà presto qua vicino, insomma, in Emilia Romagna. Intanto benvenuto Giancane, grazie per essere qui. Grazie, con noi. Grazie a tutti. Come stai? Bene, bene, dai, siamo preparativi per la partenza, che sarà una 3 giorni importante. Passiamo anche per Torino e poi da Cesena ripartiremo la notte stessa per andare a Napoli la mattina. Il tour comunque è già iniziato, dicevamo, insomma, c'è stata una data bolognese che purtroppo ci siamo persi, ma insomma possiamo recuperare questo weekend a Cesena. E volevo un po' sapere come era andato questo inizio tour e come è stato tornare sul palco soprattutto. Ma è stato bellissimo, soprattutto il fatto del pubblico in piedi che poteva ballare e menarsi senza restrizioni, è stato molto, molto bello, molto emozionante. E abbiamo fatto, comunque siamo tra i pochi fornori che hanno suonato anche durante le estati del 2020 e del 2021, però seduti per tutti i crismi legali del caso, però... E invece adesso si torna anche col contatto fisico, che è una cosa bella, esatto. Un po' a pogare, un po' ad essere fisici, esatto. Più che altro perché il mio concerto non è prettamente da ascolto, anzi, quindi era strano il pubblico seduto. Infatti io ti avevo sentito lo scorso anno, sempre qua a Bologna, hai suonato nell'estate del Ponte Lungo Summer Festival, è stato un concerto molto bello, e insomma, però immagino che le cose stiano cambiando, insomma, anche per voi musicisti com'è tornare in questo modo? Ma è proprio un altro impatto, proprio tutta un'altra cosa, un'altra energia pure che ci rimandano, quindi siamo molto più energici noi stessi, siamo più presi bene, cioè vabbè, è normale, è un concerto rock seduto non si può fare, dai. Sì, si è fatto e speriamo che non ricapiterà più. Speriamo assolutamente che non ricapiti più. Però comunque tu in questo periodo hai fatto anche diverse cose. Ovviamente mi sto riferendo anche ai pezzi dell'ultimo album che sono stati la colonna sonora di una serie TV che è stata su Netflix con i disegni di Zero Calcare, insomma. Una cosa un po' diversa. Tu avevi già fatto delle esperienze simili, cioè fare delle colonne sonore per delle serie o dei film? Guarda, non come Giancane, diciamo, nell'altra metà della mia vita sono Giancarlo e no, ho fatto una cosa, qualche sottofondo, ma niente di cose per colonna sonora, veramente no. È stata la mia prima esperienza e devo dire che spero che si ripeta perché è stato veramente un bel lavoro. Non mi ha pesato mai, è stato molto bello, più che altro vedere le immagini e scrivere determinate cose, guardando le cose, immaginandosi un sottofondo o qualcosa, è stato molto divertente, che esulava completamente da quello che faccio fondamentalmente. Però è stato anche un modo per imparare cose diverse, cose nuove. Tra l'altro fare questo album, insomma questa colonna sonora, era non solamente fare una colonna sonora, ma sia per tematiche e soprattutto per i temi delle canzoni e i temi che affronti tu e affronta anche Zero Calcare poi all'interno delle immagini, insomma si tratta di questioni anche ideologiche molto importanti, no? Ti chiederei come è nato il sodalizio anche con Zero Calcare e insomma come sta procedendo e se avete altri progetti. Zero Calcare, che amichevolmente chiamerò Michele, non per cattiveria, ci siamo conosciuti per un progetto che abbiamo fatto insieme a un gruppo con cui sono, che si chiama Il Muro del Canto, dove abbiamo fatto un pezzo contro gli abusi in divisa e lui ci fece sia le grafiche che apparve nel video di questo pezzo qui. E poi mi fece, vabbè, ci siamo anche conosciuti in altri vari ambienti, in qualche centro sociale, ma in tempi veramente remoti. E poi ha fatto il video di Ipocondria, che era un mio pezzo, io ho detto guarda, tu sei una delle persone più ipocondriache che conosca, ti va, sentitelo, se ti piace proviamo a fare un'animazione, ed era la prima volta che si cimentava nel muovere i suoi disegni, e ha detto sì, perché cioè, c'ho in mente di fare un qualcosa di animato, da lì. E i progetti futuri, sabato saremo, domenica saremo a Napoli insieme, al Comic Con. Te lo ricordi qualche anno fa, quanto eravamo soli, sempre rinchiusi dentro a un garage e tutto il mondo fuori. Ma adesso che è cambiato tutto, cambi tu e la tua città. Ma adesso che è cambiato tutto, anche la musica. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, è a me. Mi sembra tutto giusto, è tutto giusto il mio disgusto. Fa quanto eravate sordi e noi cresciuti in cattività, strappati lungo i bordi. Ma adesso che è cambiato tutto, cambio io e questa città. Ma adesso che abbiamo ammazzato anche la musica. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, è a me piuttosto. È tutto giusto il mio disgusto. E sono giorni che non sogno più. Sarà che forse sto crescendo anch'io. Distruggo un'altra sigaretta mentre tutto intorno scorre. Solo io rimango immobile. Ma sembra tutto giusto, è tutto giusto e io piuttosto credo sia tutto giusto. È tutto giusto il mio disgusto. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, è a me piuttosto. Mi sembra tutto giusto, è tutto giusto il mio disgusto. chiederei anche qualcosa riguardo non solamente all'ultimo album, che ricordiamo è uscito alla fine del 2021, ma ti chiederei anche come è cambiata la tua musica, perché questo non era il tuo primo album, anzi ce ne sono altri due all'attivo, e poi in realtà in passato hai avuto una carriera molto lunga, non solo come solista ovviamente. E ti chiederei come è cambiata la tua musica nel tempo e anche quali sono state le influenze che sono entrate, diciamo, in questi tre album da solista. Vabbè, diciamo che quest'ultimo ho toccato la colonna sonora, quindi non lo considero un disco di Giancane vero e proprio, quello uscirà penso in autunno inverno. In questo in particolare è cambiato perché c'è il pianoforte, era pure un momento storico strano dove eravamo tutti chiusi in casa, quindi io prendendo spunto da testualmente, almeno da quello che mi circonda, mi trovavo un po' in difficoltà nella scrittura testuale. Il fatto di dover fare cose strumentali mi è piaciuto, perché ho potuto mettere dei mood diversi che non avrei messo probabilmente nei miei pezzi canonici, non so come chiamarli. Però c'ho un disco che è in preparazione, che sta per uscire, diciamo il terzo disco vero di Giancane, dove parlo anche, a parte la sigla, che quella è un pezzo che poi sarà sul disco, ma che all'inizio non era stato fatto per la serie. Poi Michele fa parte della mia ristretta cerchia di persone a cui mando le cose per farmi dire se fa schifo o meno, e l'ha sentito, ha detto questa è la sigla, può essere la sigla perfetta, è proprio la tematica giusta. E allora l'ho finita anche in base alla serie. E le contaminazioni di questo nuovo album ti porteranno un po' in direzioni diverse rispetto a quelle degli ultimi due lavori, o più o meno rimaniamo fedeli alla linea Giancane? Guarda, sì, sicuramente rimarremo fedeli alla linea, perché quello c'è. Sto sperimentando cose nuove, più che altro suonando molto in giro in questi anni. Abbiamo cambiato un po' il sound con più chitarre, semplicemente. Sono molto contento di voler mettere più chitarre all'interno di un disco, che prima erano tipo bandite, non ho mai capito la motivazione. Ma sai che poco tempo fa abbiamo fatto un'altra intervista, come genere musicale ci orientiamo poi sempre, no? Su quello che ci piace, quindi musica che non era così distante dalla tua, e anche lì ci hanno detto, abbiamo messo delle chitarre e tutti ci dicevano basta con queste chitarre, c'era una sorta di effettivamente... Sì, c'è stato una specie di embargo chitarristico, non so per quale motivo, penso una questione semplicemente di moda. Io non l'ho mai levate, sinceramente, però poterne mettere di più è divertente. Live, per esempio, in molti pezzi siamo già in tre chitarre. Allora noi non vediamo l'ora di sentire le nuove chitarre, insomma anche quelle delle nuove canzoni. Ricordiamo che il tour continua, sarà il 22 aprile a Torino, il 23 aprile a Cesena al Vidia, poi a Napoli il 24 aprile e il 14 maggio a Pesaro. Ci sono anche delle anticipazioni per l'estate, date che sappiamo che possiamo già segnare? Guarda, c'è un 23 a Cervia proprio con Zero Calcare che penso che si farà quello. Poi, sì, è in preparazione il calendario. Poi a me tengono sempre all'oscuro, a un certo punto mi dicono ecco le date, ok. Io ti ringrazio molto, ricordiamo appunto che allora il 24 sarai qui nei paraggi, insomma non troppo distante da Bologna, e se vuoi lasciare un messaggio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, i microfoni sono per te. Grazie molto, spero di vedervi in tanti a Cesena e spero che quest'estate ci rivedremo a Bologna, perché è sempre bello. Grazie, grazie Radio Città Fujiko, grazie a tutti e a tutte. Grazie a te. Cosa farò? Di certo qui morirò, in quest'albergo di merda, non a casa mia. Braccio sinistro fa male, l'ansia scende e risale, lingua asciutta è partita, la tachicardia. E adesso cosa farò? Son certo che morirò, in questa stanza di merda, non a casa mia. La fame d'aria che sale, l'ansia cresce e fa male, lingua asciutta è partita, la tachicardia. È solo ipocondria, questa mia nostalgia. Ma è solo ipocondria, questa malinconia. Guardo la sorte che bussa alle porte, ho l'ansia, mi sale, la sento più forte, il cuore mi batte a tempo di morte. Ho una patologia.